Benvenuto sopra Radio Days, sistema di partenza per ogni mio viaggio mentale e comodo. Messaggi con passaggi di solvenza, ma gli errori non scompaio come lei. No, la mia mano lascia segni distinti, leva i poveri per dare più ricchi. Di forza d'evasione, di coscienza critica, come l'epoca da cui diffondo la mia trasmissione. Modulazione di frequenza cardiopalma, le previsioni del futuro tolgono la calma. Il mio dramma, commedia verbale che ci scenato da quando sono nato nello spazio teatrale. I ruoli ormai mi vanno stretti ed ho imparato ad appiccare incendi nei nuovi paradisi promessi, bruciando sogni di naftalina lasciati nei cassetti. Dell'odio, dell'amore, della guerra senza conclusione, della passione che mi ha devastato l'anima. Canto di gioia e di rancore, di quell'emozione che trovi scritta nell'involucro di lacrima. Canto di me, canto dell'uomo e non del rapper, perché il rapper senza l'uomo è soltanto un cliché. Canto di me, con la coscienza e nei miei sbagli osservo il cielo e cerco di catturarne l'arché. Ti parlo di rivoluzione, di cambiare il mondo, perché il primo dei perdenti resterà sempre il secondo. Se l'uomo tende all'infinito ha bisogno di un piano grande, quindi credo alla retorica del sogno. Con i Vaplaia mischia il cinismo e l'utopia, la fantasia e il realismo, insisto su questa alchimia. Ogni parola è un ponte verso la follia, questo disco rappresenta l'urlo della mia genia. È solo l'odio che implode, tu stande fuori. È solo l'odio che implode, tu stande fuori. È solo l'odio che implode, solo l'odio che implode, che implode, che implode, che implode. È solo l'odio che implode, tu stande fuori. È solo l'odio che implode, tu stande fuori. È solo l'odio che implode, solo l'odio che implode, che implode, che implode, che implode. I'm gonna go.